Capitolo 50. Dorotea restò al sicuro per quasi una settimana a Fresh Hall prima di fare alcuna domanda pericolosa. Ora, ogni mattina, sedeva con Celia nel più carino dei salotti al piano di sopra che dava su una piccola serra. Celia, tutta in bianco e lavanda, come un mazzolino di viole diverse, intenta ad osservare le gesta eccezionali del piccolo, che erano così ambigue per la sua mente inesperta che ogni conversazione era interrotta da ricorsi alla bambina ioracolare perché ne fornisse una spiegazione. Dorotea le sedeva vicina, col suo abito da vedova e con un'espressione che irritava alquanto Celia, in quanto era davvero troppo triste. Perché non solo il bambino stava benissimo, ma veramente, quando il marito era stato così tedioso e importuno da vivo, e oltre a ciò aveva... Beh, Sir James naturalmente aveva raccontato tutto a Celia, facendole vivamente presente quanto fosse importante che Dorotea non lo sapesse, prima del momento inevitabile. Ma Mr. Brooke aveva visto giusto nel prevedere che Dorotea non sarebbe restata a lungo passiva quando le era stato assegnato un compito dinamico. Conosceva il senso del testamento del marito stilato al momento del loro matrimonio e la sua mente, appena si fu resa conto con chiarezza della propria posizione, era silenziosamente presa da quello che avrebbe dovuto fare come proprietaria di Lowick Manor e del patronato della parrocchia annessa a questo. Un mattino, quando lo zio le fece la visita consueta, sebbene con un'inconsueta alacrità di modi che egli spiegò dicendo che ora era quasi certo che il paramento sarebbe stato sciolto entro un brevissimo tempo, Dorotea disse: «Zio, adesso è giusto che io prenda in considerazione che deve avere la parrocchia Lowick. Dopo che avevamo provveduto a Mr. Tucker, non ho mai sentito dire da mio marito che avesse alcun prete in mente come proprio successore. Penso che ora sarebbe bene che mi si dessero le chiavi e andassi a Lowick a esaminare tutte le carte di mio marito. Può darsi che ci sia qualcosa che chiarisca i suoi desideri». «Non c'è fretta, mia cara», disse Mr. Brooke con calma. «Entro poco tempo potrei andare, se vuoi. Ma ho messo gli occhi sulle cose che erano sulla scrivania e nei cassetti. Non c'era niente. Niente tranne argomenti difficili, capisci? A parte il testamento. Tutto si potrà fare entro poco tempo. Quanto alla parrocchia, ho già ricevuto una domanda perché mi interessassi, direi piuttosto buona. Mr. Tyke mi è stato raccomandato vivamente. Mi sono dato un po' da fare per procurargli un incarico in precedenza. Una persona apostolica, credo, il genere di cosa che andrebbe bene per te, cara. Desidererei avere più elementi per conoscerlo meglio, zio, e decidere di testa mia, se Mr. Casaubon non ha lasciato nessun desiderio espresso. Forse ha fatto qualche aggiunta al testamento, può darsi che ci siano delle istruzioni per me, disse Dorotea, che aveva sempre questa supposizione per la testa riguardo all'opera del marito. Nulla sulla parrocchia, mia cara, nulla, disse Mr. Brooke, alzandosi per andarsene e tendendo la mano alle nipoti, né sulle sue ricerche, capisci? Nulla nel testamento. A Dorotea tremarono le labbra. Andiamo, non devi pensare ancora a queste cose, mia cara. Entro poco tempo, capisci? Ora sto del tutto bene, zio. Desidero darmi da fare. Beh, vedremo. Ma adesso devo correre via. Ora ho del lavoro da non finire. È una crisi politica, capisci? E qui ci sono Celia e il suo ometto. Tu sei zia, lo sai ora, e io sono una specie di nonno. Fece Mr. Brooke con una placida premura, ansioso di allontanarsi e di dire a Chatham che non sarebbe stata colpa sua, cioè di Mr. Brooke, se Dorotea insisteva nel voler mettere gli occhi dentro tutto. Dorotea ricadde nella sedia quando lo zio fu uscito dalla stanza e con aria meditabonda abbassò gli occhi sulle proprie mani incrociate. «Guarda, Dodo, guardalo! Hai mai visto nulla di simile?» chiese Celia col suo sereno staccato. «Cosa, Kitty?» chiese Dorotea alzando gli occhi con aria piuttosto assente. «Cosa? Ma sì, il labbro superiore! Guarda come lo tira giù, come se volesse fare una smorfia! Non è meraviglioso?» Può darsi che abbia i suoi piccoli pensieri. Vorrei che la balia fosse qui. Guardalo! Una grossa lacrima, che da un po' di tempo si stava formando, scivolò giù lungo la guancia di Dorotea, come alzò gli occhi e cercò di sorridere. Non essere triste, Dodo. Bacia il piccolo. Tu cosa stai rimuginando? Sono sicura che tu hai fatto di tutto e anche un bel po' di troppo. Ora dovresti essere contenta. Chissà se Sir James mi accompagnerebbe a Lowick in carrozza. Voglio mettere le mani dappertutto per vedere se ha lasciato scritto qualche parola per me. Non devi andare finché Mr. Lydgate non ti dirà che puoi. E finora non lo ha detto. Eccovi, Balia, prendete il bambino e camminate su e giù per la galleria. Inoltre, hai in testa un'idea sbagliata, come al solito, Dodo. Lo vedo, mi preoccupa. In cosa sbaglio, Kitty? Chiese Dorotea con aria del tutto mite. Ora era quasi disposta a pensare che Celia fosse più saggia di lei e si chiedeva davvero con un certo timore quale potesse essere la sua idea sbagliata. Celia era consapevole del proprio vantaggio ed era decisa a sfruttarlo. Nessuno conosceva Dodo meglio di lei, se sapeva in che modo trattarla. Da quando Celia aveva avuto il bambino, aveva provato un nuovo senso della propria solidità mentale e calma saggezza. Sembrava chiaro che dove c'era un bambino le cose fossero sistemate nel modo giusto e che l'errore in generale era semplicemente la mancanza di quella forza equilibratrice centrale. Vedo benissimo a cosa stai pensando, Dodo, disse Celia. Vuoi scoprire se ora c'è qualcosa di sgradevole da fare solo perché Mr. Casaubon l'ha desiderato? Come se prima non fossi stata abbastanza male. E lui non lo merita, e lo scoprirai. Si è comportato molto male. James è infuriato con lui più che mai e farei meglio a dirtelo per prepararti. Celia, disse Dorothea in tono supplichevole, mi angosci. Dimmi subito a cosa alludi. Fu sfiorata dal pensiero che Mr. Casaubon avesse lasciato la proprietà a un'altra persona, cosa che non sarebbe stato così angosciante. Ma sì. Ha fatto un codicillo al testamento per dire che tutta la proprietà ti doveva venir meno se sposavi, voglio dire, la cosa non è di nessuna importanza, disse Dorotea interrompendo la convenienza. Ma se tu sposassi Mister Ladislav, non chiunque altro, proseguì Celia con tranquilla insistenza. Naturale che la cosa non abbia importanza in un senso. Tu non sposeresti mai Mr. Ladislav, ma questo lo rende un gesto ancora peggiore da parte di Mr. Casaubon. Il sangue affluì dolorosamente al volto e al collo di Dorotea, ma Celia le stava somministrando quella che considerava una dose moderata di fatti. Ciò che aveva così nuociuto alla salute di Dodo erano state le idee che si era messa in testa. Così proseguì col suo tono indifferente, come se stesse facendo delle osservazioni sugli abiti del piccolo. James dice così, dice che è una cosa abominevole, non da gentiluomo, e non c'è mai stato un giudice migliore di James. È come se Mr. Casaubon volesse far credere alla gente che tu avresti voluto sposare Mr. Ladislav, il che è ridicolo. È solo che James dice che l'ha fatto per impedire a Mr. Ladislav di desiderare di sposarti per avere i tuoi soldi, proprio come se potesse pensare di farti una proposta. Mrs. Cadwallader ha detto che tanto varrebbe che sposassi un italiano con i sorci bianchi. Ma devo proprio andare a vedere il bambino, aggiunse Celia, senza mutare minimamente tono, gettandosi addosso un leggero scialle e correndo via. Dorotea oramai era tornata di nuovo insensibile e a questo punto si gettò smarrita contro lo schienale della sedia. Avrebbe potuto paragonare la sua esperienza di quel momento alla vaga, allarmata consapevolezza che la sua vita stava assumendo una nuova forma, che essa stava subendo una metamorfosi in cui il ricordo non si voleva adattare al movimento dei nuovi organi. Ogni cosa stava mutando d'aspetto: la condotta di suo marito, il suo sentimento di ubbidienza verso di lui, ogni contrasto tra di loro e ancora di più tutto il suo rapporto con Will Ladislav. Il suo mondo era in uno stato di convulso mutamento. L'unica cosa che riusciva a dire distintamente a se stessa era che doveva aspettare e pensare in modo nuovo. Un mutamento la atterriva come se fosse stato un peccato. Era una violenta scossa di repulsione verso il marito defunto che aveva nutrito dei pensieri nascosti, forse distorcendo tutto ciò che le aveva fatto e detto. Poi di nuovo si rese conto di un altro mutamento, che pure la fece tremare. Era l'improvviso strano struggimento del suo cuore per Will Ladislav. In precedenza non le era mai passato per il capo che egli potesse diventare per nessun motivo il suo innamorato. Pensate all'effetto dell'improvvisa rivelazione che un altro aveva visto Will sotto quella luce, che forse lui stesso era stato conscio di una simile possibilità, e ciò con la visione precipitosa e gremita di condizioni disdicevoli e di questioni lunghe da risolversi. Le parve che fosse passato un tempo lunghissimo, non sapeva quanto, allorché udì Celia che diceva: "Così basta, Balia, adesso starà tranquillo in braccio a me. Potete andare a pranzare e fate venire Garrett nella stanza attigua." "Quello che penso, Dodo", proseguì Celia, notando solo che Dorotea stava appoggiata allo schienale della sedia ed era probabile che restasse passiva, "è che Mr. Casabo era vendicativo. A me non è mai stato simpatico, e neppure a James. Penso che gli angoli della sua bocca fossero terribilmente malevoli. E adesso che si è comportato in questo modo, sono certa che la religione non vuole che tu ti senta agitata per lui. Se se n'è andato, questa è una benedizione e tu dovresti essere grata. Noi non ci addoloreremo, vero bimbo?" disse Celia in tono confidenziale a quell'inconsapevole centro di equilibrio del mondo, il quale aveva i pugni assai degni di nota, tutti completi fino alle unghie, e capelli sufficienti davvero, quando gli si toglieva la cuffietta per fare non si sapeva cosa, in breve era un Buddha con un aspetto occidentale. In questo momento di crisi venne annunciato Lydgate e una delle prime cose che disse fu: "Temo che non stiate bene come prima, Mrs. Casabo. Siete stata agitata? Permettetevi di sentirvi il polso." La mano di Dorothea era di una freddezza marmorea. "Vuole andare a Lowick a guardare delle carte", disse Celia. "Non dovrebbe, vero?" Lydgate non aprì bocca per qualche momento, poi disse, guardando Dorothea: "Difficile saperlo. Secondo me, Mrs. Casabo dovrebbe fare ciò che le darebbe più pace mentale. Quella pace non sempre viene dalla proibizione di agire." "Vi ringrazio", disse Dorothea muovendosi. "Sono certa che questa è una proposta saggia. Ci sono tante cose di cui dovrei occuparmi. Perché dovrei starmene qui a sedere nell'ozio?" Poi, sforzandosi di ricordare argomenti che non avevano attinenza con la sua agitazione, soggiunse brusca: "Voi conoscete tutti i Middlemarch, credo, Mr. Lydgate. Vi chiederò di dirmi molte cose. Ora ho delle cose serie da fare, devo assegnare una parrocchia. Voi conoscete Mr. Ty che tutti..." Ma lo sforzo fu troppo grande per Dorothea. Si interruppe e scoppiò in singhiozzi. Lydgate le diede una dose di sali. "Lasciate che Mrs. Casabo faccia quello che vuole", e gli disse a Sir James, che chiese di vedere prima di lasciare la casa. "Ha bisogno di assoluta libertà, penso, più di qualsiasi altra medicina." L'assistenza data a Dorothea, quando questa era mentalmente agitata, gli aveva permesso di giungere ad alcune conclusioni fondate riguardo alle sofferenze della sua vita. Egli si sentiva certo che lei avesse sofferto per lo sforzo e il conflitto della negazione di sé, e che era probabile che ora si sentisse solo in un altro ambiente chiuso, come quello da cui era stata liberata. Il consiglio di Lydgate fu seguito da Sir James con tanta maggiore facilità quando questi scoprì che Celia aveva già rivelato a Dorothea il fatto spiacevole del testamento. Ora non ci si poteva fare niente, non vi era nessun motivo per rimandare l'adempimento degli atti necessari, e il giorno successivo Sir James aderì immediatamente alla sua richiesta di essere accompagnata a Lowick. "Non ho alcun desiderio di trattenermi là al momento", disse Dorothea, "non potrei sopportarlo. Sono molto più felice a Freshit con Celia. Sarei in grado di pensare meglio a ciò che bisognerebbe fare a Lowick guardandola da una certa distanza. E mi piacerebbe stare alla Grange un po' assieme allo zio e aggirarmi per tutti i vecchi sentieri e fra la gente del villaggio." "Non ancora, penso. Vostro zio sta frequentando molti uomini politici ed è meglio che vi teniate fuori da simili attività", disse Sir James, che in quel momento pensò alla Grange in primo luogo come a un posto frequentato dal giovane Ladislav. Ma fra lui e Dorothea non si accennò minimamente alla parte sgradita del testamento. In effetti, entrambe pensarono che accennare ad esso fra di loro sarebbe stato impossibile. Sir James era timido anche con gli uomini quando si veniva ad argomenti spiacevoli, e l'unica cosa che Dorothea avrebbe voluto dire, casomai avesse parlato della faccenda, le era proibita al momento, perché sembrava un'ulteriore denuncia dell'ingiustizia del marito. Eppure questo sì. Avrebbe voluto che Sir James sapesse ciò che era intercorso fra lei e il marito in merito al diritto morale di Will Ladislav al possesso della proprietà. Allora pensava sarebbe stato chiaro a lui, come lo era a lei, che la strana offensiva clausola del marito era stata soprattutto dettata dalla sua aspra opposizione all'idea di quel diritto e non semplicemente da sentimenti personali di cui era più difficile parlare. Inoltre bisognava ammetterlo. Dorotea desiderava che ciò si potesse conoscere per giustizia verso Will, dato che i suoi parenti sembravano considerarlo semplicemente oggetto della compassione di Mr. Casebo. Perché lo si doveva paragonare a un italiano con i sorci bianchi? Quella parola citata da Mrs. Cadwalader sembrava una beffarda parodia operata nell'oscurità da un dito malizioso. Alowick. Dorotea frugò scrivania e cassetto, frugò in ogni ricettacolo di scritti personali del marito, ma non trovò nessuna carta diretta in particolar modo a lei, tranne quella tavola sinottica che era probabilmente solo l'inizio di molte progettate istruzioni che le dovevano servire da guida. Nel lasciare a Dorotea questa eredità di fatica, come in ogni altra cosa, Mr. Casebo era stato lento ed esitante, oppresso nel progetto di trasmettere la sua opera come lo era stato nella sua esecuzione, dal senso di muoversi pesantemente in un mezzo che lo inceppava. La sfiducia nella competenza di Dorotea a disporre ciò che egli aveva preparato fu vinta solo dalla sfiducia di qualsiasi altro curatore. Ma aveva finito per riporre una certa fiducia nella natura di Dorotea. Lei era in grado di fare ciò che decideva di fare. Ed egli se la immaginò volentieri affaticarsi nelle pastoie della promessa di erigergli una tomba col proprio nome su di essa. Con questo, Mr. Casaubon non chiamava i futuri volumi una tomba, li chiamava la chiave di tutte le mitologie. Ma i mesi guadagnarono terreno su di lui e lasciarono i suoi progetti incompiuti. Egli aveva avuto solo il tempo di chiedere quella promessa con cui cercava di conservare la sua fredda presa sulla vita di Dorotea. La presa era sfuggita, vincolata da una promessa fatta dal profondo della propria compassione. Sarebbe stata in grado di sobbarcarsi una fatica che il suo discernimento le sussurrava vana per qualsiasi uso, tranne quella consacrazione della fedeltà che è un uso supremo. Ma ora il suo giudizio, invece di essere tenuto soggiogato da una devozione doverosa, era reso attivo dalla scoperta esacerbante che nella sua unione passata si era mossa furtivamente la celata alienazione del segreto del sospetto. Non era più davanti a lei ad estare la sua compassione, l'uomo vivo e sofferente. Restava solo il ricordo di una penosa soggezione a un marito i cui pensieri erano stati più meschini di quanto lei avesse creduto, le cui esorbitanti pretese per sé avevano addirittura accecato la sua preoccupazione scrupolosa per il proprio buon nome e lo avevano condotto a sconfiggere il proprio orgoglio, scandalizzando uomini di comune rispettabilità. Quanto alla proprietà, che era il segno di quel vincolo infranto, sarebbe stata lieta di esserne stata esonerata e di non avere nient'altro che quel patrimonio che le era stato assegnato ancora prima di sposarsi, se la proprietà non avesse comportato doveri da cui lei non poteva ritrarsi. In merito a questa proprietà, molti imbarazzanti interrogativi si presentavano con insistenza. Non aveva forse avuto ragione a pensare che metà di essa sarebbe dovuta andare a Will Ladislaw? Adesso non le era impossibile compiere quell'atto di giustizia? Mr. Casebo aveva preso una misura crudelmente efficace per impedirglielo. Fu indignata contro di lui in cuor suo. Qualsiasi atto che sembrasse eludere trionfalmente il suo scopo la rivoltava. Dopo aver raccolto carte commerciali che desiderava esaminare, chiuse nuovamente a chiave lo scrittoio e i cassetti, tutti privi di parole personali per lei, privi di qualsiasi segno che, nel suo solitario rimuginare, il cuore del marito fosse andato a lei per chiederle scusa o per spiegarle. Ed essa ritornò a Freshit, con la sensazione che attorno alla sua ultima crudele richiesta e la sua ultima ingiuriosa asserzione di potere, il silenzio era totale. Dorotea ora cercò di rivolgere i propri pensieri a doveri immediati e uno di questi era di un genere che altri erano decisi a ricordarle. L'orecchio di Lydgate aveva colto con sollecitudine il suo accenno alla parrocchia e appena poté ritornò sull'argomento, vedendo in ciò la possibilità di riparare al vuoto determinante che un tempo aveva dato con una coscienza che gli rimordeva. Invece di dirvi qualunque cosa su Mr. Tyke, egli disse, desidererei parlarvi di un'altra persona, Mr. Fairbrother, il parroco di St. Bolot. La sua parrocchia è misera e basta stentatamente a lui e alla famiglia. La madre, la zia e la sorella vivono tutte con lui e dipendono da lui. Io credo che non si sia mai sposato a causa loro. Non ho mai udito prediche così belle come le sue, un'eloquenza così piana, così scorrevole. Avrebbe potuto benissimo predicare a St. Paul's Cross dopo il vecchio Latimer. I suoi discorsi sono altrettanto buoni su tutti gli argomenti, originali, semplici, chiari. Penso che sia una persona eccezionale. Avrebbe dovuto fare più di ciò che ha fatto. Perché non ha fatto di più? Chiese Dorotea, oramai interessata a tutti coloro che non avevano realizzato i propri progetti. Questa è una questione difficile, disse Lydgate. Io stesso mi rendo conto che è eccezionalmente difficile realizzare la cosa giusta. Vi sono tanti cordoni che tirano nello stesso tempo. Fairbrother spesso accenna al fatto di aver sbagliato professione. Ha bisogno di un campo più vasto di quello di un povero prete e suppongo che non abbia alcun interesse che lo aiuti ad andare avanti. È assai appassionato di storia naturale e di vari argomenti scientifici e si trova intralciato nel conciliare questi gusti con la propria posizione. Non ha denaro da risparmiare, neppure a sufficienza da usare, e questo l'ha portato al gioco delle carte. Middlemarch è un posto meraviglioso per il whist. Egli in effetti gioca per i soldi e vince molto. Naturalmente questo lo porta ad associarsi a persone un po' al di sotto del suo livello e gli fa trascurare alcune cose. Eppure, nonostante tutto questo, giudicandolo in modo globale, penso che sia uno degli uomini più irreprensibili che abbia mai conosciuto. E lì non c'è né malignità né doppiezza. E questi difetti spesso si accompagnano alle più corrette apparenze. Mi chiedo se in cuor suo soffre di quell'abitudine, disse Dorotea. Mi chiedo se voglia poter smettere. Non ho dubbi che smetterebbe se lo si trapiantasse nel benessere. Sarebbe lieto di avere del tempo per altre cose. Mio zio dice che Mr. Tyke viene indicato come un uomo apostolico, disse Dorotea con aria meditativa. Si augurava che fosse possibile far rivivere i tempi dello zelo primitivo, eppure pensava a Mr. Fairbrother con un intenso desiderio di salvarlo dal suo denaro datogli dalla fortuna. Non voglio dire che Fairbrother sia apostolico, disse Lydgate. La sua posizione non è esattamente quella degli apostoli, è solo un parroco fra parrocchiani le cui vite egli deve cercare di migliorare. Praticamente mi accorgo che quello che oggi si chiama apostolico è un'insofferenza per tutto ciò in cui il parroco non la fa da protagonista. Vedo qualcosa del genere in Mr. Tyke all'ospedale. Gran parte della sua dottrina è una specie di duro tormento per far sì che la gente si accorga di lui con un senso di disagio. Inoltre, un uomo apostolico, Lowick, dovrebbe pensare come San Francesco che è necessario predicare agli uccelli. È vero, disse Dorotea. È difficile immaginare che genere di idee i nostri contadini e braccianti ricavino dal loro insegnamento. Ho esaminato un volume di sermoni di Mr. Tyke. Simili sermoni non sarebbero di alcuna utilità a Lowick, voglio dire, sulla rettitudine, le profezie dell'Apocalisse. Ho pensato sempre ai modi diversi in cui il cristianesimo viene insegnato e ogni volta che trovo un modo che ne fa un beneficio maggiore di qualsiasi altro, mi aggrappo a quello come al più vero. Voglio dire, quello che contiene la maggior parte di bene di ogni genere e porta il maggior numero di persone a farne parte. È certamente meglio perdonare troppo che condannare troppo, ma desidererei vedere Mr. Fairbrother e sentirlo predicare. Fatelo, disse Lydgate, faccio assegnamento sull'effetto che produrrà. È assai amato, ma anche i suoi nemici. C'è sempre gente che non può perdonare a un uomo capace di pensare diversamente da loro. E quella faccenda dei soldi vinti alle carte è veramente una macchia. Naturalmente non vedete molte persone di Middlemarch. Ma Mr. Ladislav, che vede continuamente Mr. Brooke, è un grande amico delle vecchie signore della famiglia di Mr. Fairbrother e sarebbe lieto di decantare il parroco. Una delle vecchiette, Miss Noble, la zia, è un quadro stupendamente pittoresco di bontà altruista e Ladislav talvolta le fa da scorta nei suoi giri. Li ho incontrati l'altro giorno in una strada secondaria. Conoscete l'aspetto di Ladislav? Una specie di Daphne in giacca e panciotto. E questa piccola zitella gli si aggrappava al braccio. Sembravano una coppia caduta da una commedia romantica. Ma la migliore dimostrazione del Super Brother è vederlo e sentirlo. Fortunatamente Dorotea era nel suo salotto privato quando ebbe luogo questa conversazione e non c'era nessun presente a renderle doloroso l'innocuo accenno di Lydgate all'Ladislav. Come era sua abitudine in materia di pettegolezzi personali, Lydgate aveva del tutto dimenticato l'osservazione di Rosamond, che le aveva detto di pensare che Will adorasse Mrs. Casabo. In quel momento gli premeva solo ciò che avrebbe reso gradita la famiglia Fairbrother e aveva di proposito sottolineato il peggio che si poteva dire del parroco per prevenire le obiezioni. Nelle settimane trascorse dalla morte di Mr. Casabo non aveva visto Ladislaw e non aveva udito alcuna voce che lo avvertisse che il segretario confidenziale di Mr. Brooke era un argomento pericoloso di cui parlare con Mrs. Casabo. Quando se ne fu andato, il suo quadro di Ladislaw indugiò nella mente di lei e contese il terreno alla questione della parrocchia di Lowick. Cosa stava pensando Will Ladislaw di lei? Avrebbe sentito parlare di quel che le faceva avvampare le guance come non le era mai accaduto? E cosa avrebbe provato quando ne avrebbe sentito parlare? Ma lei riusciva a vedere perfettamente come egli sorrideva alla piccola vecchia zitella. Un italiano coi topi bianchi. Al contrario. Era una persona che faceva breccia nei sentimenti di tutti ed era in grado di capire il disagio del loro pensiero, invece di imporre il proprio con resistenza ferrea.